farò di tutto per non perderti. Sei consapevolmente irresistibile. Senza calpestare resto io, sarò per te un motivo in più. Sarai perversa e dolce a modo mio. Sarò la vitamina che ti rinforzerà. L'inconveniente tipico della tua età. E io è lì che mi dedicherò. Farò l'impossibile che per te diventa possibilità. Sarò imprevedibile, bacerò i tuoi piedi stanchi e dormirai. Sarai preda delle gelosie. Ti aiuterò perché anch'io ne soffro, sai. Ma pensa alle mie mani spesso su di te e pensa dove ti riporterò. Farò l'impossibile. Con te mi arrivano così, cose che non hai mai chiesto mai.